Mancano 15 secondi alle 7 del mattino. È qui che si vede l'attaccamento alla maglia, la passione per questa professione. 15 secondi in anticipo che non chiederemo sul nostro stipendio. C'è l'Ariele, eccolo qui. Ciao, ciao. Spadino dall'altra parte del vetro, in attesa come ogni mattina di Roberto Fricantoni, la ciliegina della nostra trasmissione radiofonica. Da una Milano piovigginosa ma soprattutto ventosella. Una Milano nella quale la speranza di vedere l'omino che corre quest'oggi è veramente bassa per colpa del tempo. E in compenso e in più si aggiunge la preoccupazione per il nostro lampione crepuscolare, che con questo vento ondeggia a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Un po' di preoccupazione ce la dà. Sigla! Speriamo che la buona musica ci faccia passare questa paura per le sorti del lampione crepuscolare. Via! Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tradu, tra. La tua colazione rock. La colazione migliore. Pane, burro e rock and roll. Benvenuti, benvenute. È la colazione che fa per voi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Rock FM è il nome della stazione radiofonica. Pane, burro, rock and roll, il nostro programma, il nostro marchio. Due ore completamente originali, scritte da questi folli che vi parlano. Puntata 116, mercoledì 24. Due ore a nostra disposizione per dare il peggio di noi stessi. E ovviamente anche voi avete la possibilità di dare il peggio di voi contattandoci alle coordinate che vi ricorderò tra poco. Stavo pensando, Spadino, a quanto il tempo in realtà influisca anche sulle frequenze di Rock FM. Quindi a volte il vento spinge le nostre frequenze un po' più in là. Quindi magari c'è qualcuno che non è mai riuscito a sentire Rock FM che adesso sente la nostra voce. Ciao qualcuno che non ci hai mai sentito. Resta con noi. Entra nella nostra squadra. È gratis. Fa sempre bene dire che è gratis, eh? Aiuta sempre un pochino. Pioggia invece intravedo dal primo messaggio genovese che potrebbe esserci da quelle parti, e però non sappiamo nulla riguardo la Toscana, la Liguria e quel pezzettino di Emilia che con tanto orgoglio abbiamo conquistato con le nostre frequenze. Iniziamo col reparto meteorologia, ma sì, dai, fa molto nazional popolare, rock no, non lo fa, nazional popolare sì. Si inizia da signori, si inizia con stile. Jethro Tull, Living in the Past. We'll be right back. inconfondibile flauto. Targato Jethro Tull, Living in the Past, 7-6 minuti primi. Allora, permettetemi di invitarvi ufficialmente qui in casa Rock FM a entrare nei nostri studi in via Locatelli 1, 2124 Milano, quantomeno a entrare nel nostro computer di destra, quello che sta alla nostra destra. Le coordinate sono molto semplici, un numero di SMS, che tra l'altro giocato all'otto ci ha anche portato un ambo, 335-100-7777 e una casella di posta elettronica che come ogni giorno è ariel@radiorockfm.com. Non siate timidoni, entrate, siamo in squadra con voi. Non chiedetevi cosa pane, burro e rock and roll può fare per voi, ma cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll. Detto ciò, mi tuffo a bomba sulla prima mail di quest'oggi, anche perché in tanti, lo so, il mercoledì vi svegliate pensando subito a lui, a Carlo, il nostro tabaccaio, colui che ci regala un paio di volte a settimana dei numeri da giocare all'otto che non usciranno mai. Effettivamente anche ieri non ne abbiamo azzeccati. In realtà, segnala, ne è uscito solo uno, il 10 su Firenze-Roma. In compenso, segnala, ci sono stati molti più giocatori che hanno tentato quei numeri. Ormai la sua tabaccheria si sta trasformando in un ritrovo di folli ascoltatori di pane, burro, rock and roll. E commenta Carlo: sono anche riuscito a far sintonizzare i miei clienti su Rock FM, impresa ardita, quasi come fare Eterno, considerando che lì da lui sembra di essere in una commedia dei Legnanesi. E saluto a tutti gli amici della tabaccheria di Carlo. E attenzione, la portinaia Carla in aggiunta, intanto saluto con tanto di strombazzata la cara portinaia Carla, che ha fatto anche i tarocchi, quelle carte con i simboli sopra, che dicevano vincita sicura. Si è promessa di continuare a giocarli, anche se non sono usciti, perché dice siano numeri molto belli e che le sue carte non mentono mai. Questo in riferimento ai numeri che abbiamo dato ieri. Giustamente Carlo segnala, ci dobbiamo purtroppo dissociare dalla portinaia Carla, perché noi, essendo rock, li giochiamo una volta sola, colpo secco, o escono o ciao, passiamo ad altri numeri. Però auguriamo buona fortuna alla portinaia Carla, perseverare potrebbe aiutarci. Dovesse vincere poi Shura Carla, ci mettiamo d'accordo con Carlo, no? Insomma, abbiamo un accordo. Yeah. sono mattine che non mi basta l'acqua gelata per svegliarmi, ci sono mattine che non mi basta il dentifricio al metanolo per svegliarci, ci sono mattine che io ho bisogno, il buongiorno, di Roberto Friccantoni per svegliarmi. E allora eccolo, buongiorno a lei DJ Ariele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e alle radioascoltatrici. E quando c'è fricca, pane, burro e rock and roll, così d'amblè a inizio trasmissione scatta l'almanacco del giorno che fu. Infatti. Ha visto che ho imparato a non farle più la domanda così lei mi risponde no? Ma infatti è molto più sciolto così. Facciamo un retro? Le va di fare un almanacco del giorno? Ovviamente no! 24 di ottobre, grazie Spadino per la base, partiamo nel lontano 1861. Ah sì, si completò la prima linea telegrafica intercontinentale. Questo però, ahimè, segnò la fine dei Pony Express. Mannaggia, ci fossimo stati noi nell'861, io sarei partito con una campagna a favore dei Pony Express. Ma anche noi, subito, pane, potremmo burro, fare una campagna a favore dei Pony Express di adesso, quelli che portano giusto, le pizze. Giusto, ci giusto. Pensiamo dopo, però. Occupiamoci degli odierni, dei moderni Pony Express. Intanto andiamo avanti con l'almanacco, che allora, le dico che il 24 ottobre, ma del 1926, esatto. Allora, si poté assistere all'ultima performance di Harry Houdini, il mitico mago, il mitico trasformista, il mitico, come si può dire, quando uno si libera da tutto, prestidigitatore, citando benissimo. Una battuta di arte. Un uomo famoso perché si liberava, fece degli esperimenti al limite del possibile, sì. Si liberava da catene, usciva da casseforti, da qualsiasi cosa, insomma, era un grande evasore. Oh, eccolo lì, come lei con evasore. Le tasse. È qui che l'aspettavo. E a proposito di tasse, la mia dichiarazione irreprensibile. Passiamo a una notizia del 1929. Oggi avveniva il famosissimo giovedì nero, il crollo della borsa di Nuova York. Ai, quanti cosa? Quanti volarono dalle finestre. Sì, beh, sì. Ai loro. Mentre chiudiamo con una notizia del 1947, il nostro caro amico Walt Disney proprio oggi testimoniò alla House and American Activities Committee, che potrei tradurre la casa del comitato delle attività anti-americane. Lui testimoniò facendo i nomi degli impiegati della Disney da lui ritenuti essere comunisti. Bravo Walt, un delatore di qualità. Senta Walt, a proposito, dica. Io non so se mi posso rivolgere a lei dai microfoni di Rock FM, della nostra radio, voglio dire, io vorrei chiederle che fine ha fatto suo fratello Roy. E non ce lo siamo dimenticati. No. Fuori il fratello Roy, maledetto Walt! Cosa ne hai fatto? E beh, che c'è? Come on. regà, è ufficiale, eh? A volte la droga fa bene. Cioè, non si può dire niente. Steven Tyler e Joe Perry ai tempi fece decisamente bene, almeno per aver creato Sweet Emotion, uno di quei brani che a volte si ti ricordi, no? Però poi quando te lo rigusti così alle 7:20 del mattino, ancora in penombra, mentre ti stai riprendendo, non so, a me oggi ha fatto un effetto particolare. Io me la sono portata di batteria questa Sweet Emotion. In termine più semplice, ho fatto finta di suonare la batteria, ecco. Sciora Carla, portinaia, la batteria si tiene con le mani, con una con la destra fai ta ta ta ta ta e con l'altra fai du, du, du, e fai finta di suonarla. Una cosa che fanno i giovani, un giorno passeremo in portineria e le spiegheremo bene come si fa a suonare la batteria. Ciao Stacano Variele, ciao caro Fa, immancabile presenza del nostro SMS. Ruggero l'autista in via Paolo Sarpi, piovicchia, freddo e pioggia sono le mie giornate preferite. Roby contento per Living in the Past, come contento anche Lore 66 da Livorno per il reparto meteorologia, tempo ventoso e pioggia ma si vede il sole, con Ian Anderson al flauto. Siamo in squadra anche con il nostro Gian, che consegna gelati a fine ottobre sotto l'acqua a 9 gradi con cella frigo a meno 30. Siamo con te, per fortuna solo spiritualmente, però. Oh, questa cosa dei compleanni, ragazzi, ci sta sfuggendo di mano, eh? Potreste fargli auguri a Giordano, che oggi compie 25 anni. Saluti ad Elena, mentre strombazzata per Mike, patente 198. Per la prima volta invoco Mister Trombetta, ho un colloquio oggi pomeriggio, potrebbe essere l'inizio di una svolta importante e con la strombazzata giusta io sto un po' più tranquillo. Mike, come si dice, stai in una botte di ferro. Occupiamoci invece di Federico, un vero rocker di 4 anni che ogni volta che sente la radio commenta: questi sono quei bischerini di pane, burro e rock and roll. Un saluto ad Alessandra e complimenti per l'educazione di tuo figlio, che ci chiama bischerini e non altro. Complimenti. Tra l'altro, da ieri la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll è in ricerca sfrenata di genitori con piccole creature al seguito. Siamo molto curiosi di scoprire gli aneddoti della vostra crescita rock di vostro figlio. Ieri abbiamo ascoltato un amico milanese, Daniele, che avrebbe comprato nel pomeriggio la prima chitarra a suo figlio. Siamo molto curiosi, quindi appello ai genitori all'ascolto, se avete aneddoti da raccontarci per quanto riguarda la crescita rock dei vostri figli. È grasso che cola per noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Intanto proseguiamo sognanti, come è giusto che sia. Mi viene sempre da parlare, adesso che so che c'è la portinaia Carla all'ascolto, io sto trasmettendo solo per lei, capito? Questa signora è Dreamer. Gigi, per farsi perdonare vi offro un bel caffè. Pane, burro e rock and roll. Viva il caffè! Viva. È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Eccoci qui. Spadino messo male stamattina. Pane, burro e rock and roll, 7:30 minuti primi. Prosegue la sfida contro la mattina. Anche quest'oggi vincerà il sole o vinceranno le tenebre? Lo scopriremo tra poco. in diretta. Un saluto a Metal Chef che si chiede quale sarà la band preferita dalla portinaia, forse i Doors. Aia. A Genova tempo fallico, perché devo lavare le scale, si chiede il nostro lavascale. Hai ragione, non lavarle, stai lì. Poi lamentati che ci è passato sopra qualcuno. Oggi a Rovagnate Rock FM si sente senza interferenze. La nicchia vincerà, firmato Marco 68. E un saluto anche al gruppo d'ascolto di quelli che stanno andando a fare gli esami del sangue. Bella! Resto basito invece da questo messaggio. Ciao PBR. Spiegatemi come si fa a svegliarsi alle troppo presto di mattina senza bere un litro d'acqua la sera prima. Un bacio. O non l'ho capita. UFO, Doctor Doctor. Questa è Rock FM, la squadra del mattino. Oggi, ragazzi, c'è aria di maretta nella nostra redazione. È una questione che vi spiegherò tra qualche minuto, anche perché adesso voglio occuparmi di ognuno di voi, di quelli che, scrutando con la coda dell'occhio il proprio orologio e accorgendosi che sono le 7.35 e purtroppo devono valutare il fatto che sono terribilmente in ritardo, e quindi anche oggi avremo bisogno di una buona scusa da inventarsi per cavarsela anche in questo mercoledì. Beh, ce l'abbiamo, Fricantoni è pagato per questo. Servizio a favore del radioascoltatore, si chiama il ritardatario ritardato. Servizio a favore del radioascoltatore, il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, lei mi deve punire. Io sono da biasimare perché mi sento, me lo lasci dire, no, me lo lasci dire, mi sento un fesso, sì, uno sprovveduto. Pensi che non mi sono presentato per 3 giorni oltre al ritardo di oggi perché avevo un'orticaria imbarazzante, insomma ero impresentabile, ancora forse vede qualche rimanenza, qualche rimasuglio appunto di orticaria, di pelle irritata. Io devo dire ho abboccato all'amo, forse lei ha intuito il mio problema, il mio, diciamolo pure, il mio complesso di inferiorità, io mi sento basso e dunque ho acquistato uno stock di 50 scatole maxi, volume maxi, di crema per accrescere la statura, sì. Questa crema che prometteva una crescita di almeno 10 centimetri di altezza in soli 5 giorni mi ha in realtà procurato soltanto una terribile setticemia. Ho dovuto nascondermi i colleghi e soprattutto lei le conosce, le colleghe, sì, mi avrebbero deriso. Il ritardatario ritardato, non dimenticate! Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. No, non la provi assolutamente. Noi bassi di statura non abbiamo di che vergognarci. Storie di chitarroni per gli status quo di Roll Over Lay Down. Allora, abbiamo bisogno di voi, dai. È una cosa che dico spesso e volentieri, ma in alcuni casi la richiesta è più forte e questo è un caso decisamente particolare. Riunioni di redazione di Pane, Burro e Rock and Roll voi dovreste vederle, solitamente rischia che tra un chinotto e l'altro ci si metta le mani addosso, perché prendiamo questa cosa di Pane, Burro e Rock and Roll forse un po' troppo seriamente. Lo so, a un primo ascolto potremmo sembrare solo dei bischerini che la buttano in caciara, e invece devo confessarvi che prendiamo molto seriamente la filosofia, lo stile che vogliamo dare a questa trasmissione radiofonica. Il grosso problema che stiamo trattando in queste ultime ore e non riusciamo a trovare una soluzione è il tema Halloween, ok? Settimana prossima, appunto, sarà il 31 di ottobre, la ricorrenza dovrebbe essere ogni santi, ma ormai anno dopo anno si festeggia sempre di più questa festa che si chiama Halloween, festa che è ovviamente molto rock, perché ci sono insomma i fantasmi, gli zombie, è un immaginario molto rock quello di Halloween. Il problema della nostra redazione è che in realtà Pane, Burro e Rock and Roll è in ogni caso sempre e comunque contro, quindi non riusciamo a deciderci se siamo con Halloween perché è rock o se siamo contro Halloween perché comunque è rock essere contro. E allora, come si direbbe in un qualsiasi reality televisivo, facciamo che è il popolo sovrano e vi chiediamo di votare. Ecco, noi ce ne laviamo le mani alla Ponzio Pilato. 335 100 7777, secondo voi Pane, Burro e Rock and Roll deve schierarsi a favore di Halloween perché è una festività, ha un immaginario rock, o deve schierarsi contro perché comunque Pane, Burro e Rock and Roll non ci sta? Io non vi dico qual è il mio pensiero, perché sennò insomma rovinerei la votazione, che deve essere democratica, libera e sincera. Quindi al nostro numero di SMS vogliamo sapere la vostra. Secondo voi Pane, Burro e Rock and Roll è con Halloween o contro? Grazie, lo chiederò poi nel corso del programma. Intanto proseguiamo. Qui c'è sempre l'Ariele, eh? Salve Giovanna. Ciao, no, Ariele ho detto. Che mio nome è Roy. E il mio Ariele, te l'ho detto. Sei del Texas? No. No, di Gallarate. Ma dai, anch'io. Ragazzi, gustatevela tutta. Yeah! Storie di fiati bollenti. The Blues Brothers. Mollate tutto, dai. Lasciate stare. Fatevi passare la carogna con She Called the Caddy. She Called the Caddy. Left me and you to ride. Well, my baby called the Caddy. Left me and you to ride. Lontano 1954, quando Roberto Fricantoni venne alla luce, ma non era il 24 di ottobre, ed è per questa ragione che non le augureremo il buon compleanno. Ah, lo stesso, perché sono comunque gratificato da questa sua presentazione così iperbolesca. Cosa stavo presentando, secondo lei? I nati del Perfetto. Giorno. E allora, diamo il buon compleanno all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nasceva oggi nel 1945, auguri ONU. Tanti auguri ONU. Sì. Un sacco di auguri ONU. E adesso? Sì. Facciamo i nostri benvenuto, tanti auguri, sì? A Mr. Bill Wyman, il celebre bassista dei Rolling Stones. Yeah, nato nel 1936. E nasceva anche lui quest'oggi, ma nel 1947, Kevin Kline, attore statunitense, da non confondere con Calvin Klein, che non c'entra una mazza, e ci sono un paio di L in più. Infatti, eh? No, perché? Ricordiamo i suoi film. Sì, la prego, ce li ricordi. Infatti vinse una Academy Award e un Tony Award. Ah, cos'è un Tony Award? Un'abbreviazione di Fricantoni Awards. E anche il premio Oscar nel 1989 quale miglior attore non protagonista in Un pesce di nome Wanda, dei mitici Monty Python, fantastico. Questo gruppo surreale inglese. Guarda, io lo ricordo invece in In e Out, straordinario, un grande film. Chiudiamo in bellezza i compleanni del giorno di quest'oggi con la nostra modella americana di riferimento. In questo mercoledì nasceva nel 1981 Tila Tequila. Lei sa chi è? Ma certo, sa che io ho acquistato... No, davvero, io ho investito gli ultimi risparmi per acquistare un camion apposta per attaccare l'immagine di Tila Tequila. Lo volevo mettere proprio lì. Ciao Tila. È nel contesto migliore. Ciao Tila, ciao Tequila. Ehi, Frigo, cosa stai leggendo? Si chiama Topolino Rogna, è un fumetto che leggono gli umani. E allora che cazzo c'è da ridere? Guarda! Ma cosa c'è da ridere? C'ha le orecchie nere! E allora? Sembra Topo Scalogna dopo i crash test dell'altro ieri. Aspetta, ma è vero? Un po' è vero. Topolino! Guarda! Povero Topolino, però! Chissà se anche lui c'è rimasto sotto come Scalogna. Beh, pensandoci hai ragione. Solidarietà a Topolino! Maledetti umani, strapazzatevi le vostre di orecchie! Orecchioni!